Pescara, Pescara, sei forte e bella e cara. Pescara, Pescara, la squadra del campion. Pescara, la squadra del mio cuore. Pescara, Pescara, che sempre vincerà. Pescara, forza Pescara, Pescara, viva Pescara. Pescara, forza Pescara, Pescara, viva Pescara. Pescara, sei grande come il mare. Pescara, Pescara, più grande cosa sarai. Pescara, così canta il mio cuore. Pescara, Pescara, e vincerà con te. Pescara, Pescara, sei grande come il mare. Pescara, Pescara, più grande corserai. Pescara, così canta il mio cuore. Pescara, Pescara, e vincerà con te. Pescara, Pescara, viva Pescara, Pescara, forza Pescara, Pescara, viva Pescara, Pescara, forza Pescara, Pescara.